bambino io sognai di eroi e marinai. Nella mente avevo già la mia idea di libertà. La bambina che era in me, ore donne insieme a te, stretta tra le braccia tue, la mia idea di libertà. Sharzan, Sharzan, e la voglia di volare, di sognare insieme a te il modo giusto per amare. Che ti dà sempre la felicità. Ho sognato tanto amore e l'ho trovato qui con te. Questo sole, amore mio.